Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Andrà David Luiz. In porta! I due centrali del Brasile! Prima Thiago Silva, poi David Luiz! 2-0 con un gol pazzesco di David Luiz, che porta di 2 gol avanti il Brasile adesso! 2-0! Lungo a cercare Immobile, pallone interessante, Immobile! Fantastico il gol di Ciro Immobile! Dopo la tripletta contro il Livorno, la firma anche allo Stadio Olimpico. Pallone proprio per Jackson Martinez, è arrivata la copertura, ancora Jaime! Jaime Rodriguez! El 10, che gol! Che gol del 10! Good save by Green. Ashley Cole's there, and it's 4-0 to Chelsea. His first goal for Chelsea. Beh, adesso abbiamo voglia che inizi un po' tutto, perché ci stiamo più o meno divertendo tra mercato e Tavecchio, però adesso abbiamo voglia che inizi i campionati, cosa che accadrà per questo weekend per quanto riguarda il campionato francese, che apre i battenti, prima partita Stade Rennais Paris Saint-Germain. Nel weekend successivo, 16-18, toccherà la Premier League, prima partita il sabato alle 13.45 Manchester United Swansea. Il 22 toccherà la Bundesliga, Bayer Leverkusen Wolfsburg per iniziare. 24 agosto tutte le gare alle 19, tocca alla Liga, Real col Cordoba, il Barcellona con l'Elce, Rayo Vallecano Atletico Madrid, e noi arriviamo per ultimi come al solito, giochiamo una partita e poi tutti fermi per 2 settimane perché c'è la nazionale. Con me c'è Giovanni Capuano che da domani terrà compagnia, ciao Giovanni. Ciao, la Turchia inizia la dopo Turchia, l'Italia. Stavo parlando di questi che normalmente seguiamo. Allora, campionato francese, Fox Sport, la voce tecnica Fabrizio Ravanelli. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Senti, campionato in crescita quello francese, con un processo strano peraltro, i soldi degli arabi, Paris Saint-Germain e dei russi al Monaco, un europeo in preparazione, tanti stadi che fioriscono, bellissimi, fioriscono come margherite sul territorio francese, e una nazionale che è tornata competitiva. Sì, perché il calcio francese sta investendo molto anche sui settori giovanili, e quindi credo questo sia una programmazione che stanno cercando di fare con molta intelligenza. Stanno crescendo molto e devo dire che anche gli stadi sono veramente spettacolari, sono degli stadi eccezionali, basta vedere anche quello di Lille che è veramente qualcosa di incredibile. La nazionale francese poi ha dimostrato veramente, anche se è uscita con la Germania, che poi ha vinto il campionato del mondo, che è in netta crescita, e quindi tutto il movimento calcistico francese è in netta crescita. Ci sono giocatori molto validi, un calcio che si avvicina molto a quello italiano, perché sono cresciuti anche a livello tattico, e quindi credo che sia un calcio in evoluzione. Che tu l'hai visto dall'interno con l'Ajaccio all'inizio del campionato scorso, ma che campionato è dal punto di vista qualitativo? Perché siamo stati abituati alla lunga dinastia del Lione, adesso c'è un Paris Saint-Germain che francamente diventa difficile immaginare battibile. Sì, credo che il Paris Saint-Germain sia una squadra difficile da battere in Francia, ma sia difficile da battere anche a livello europeo. Ha perso quest'anno la possibilità di lottare per vincere la Champions League, forse anche per qualche errore tecnico-tattico, perché a Stamford Bridge stava anche perdendo 1-0, ma poteva aggiustarsela molto meglio la partita. C'è stato qualche disattenzione, hanno preso qualche gol in malo modo, quindi una squadra che onestamente può fare molto di più, perché ha veramente dei grandi campioni. al di là di che ha un campione su tutti che è Ibrahimovic, che è un giocatore straordinario, un giocatore che noi del calcio italiano lo rimpiangiamo perché è un campione veramente incredibile, oltre che essere un uomo gol, un uomo assist, ma è anche un leader in campo, al di là di quello che possono dire del suo carattere e tutto quanto, ma è un giocatore che onestamente manca al nostro calcio italiano e credo che in Francia lo stiano osannando perché ha riportato una notorietà, ha fatto crescere tanto la squadra, perché credo che il Paris Saint Germain è cresciuto anche grazie alla sua esperienza e a tanta altra esperienza magari di tanti altri giocatori come Thiago Silva, quindi credo che questa squadra possa veramente quest'anno lottare per vincere la Champions League e sicuramente credo non avrà problemi a rivincere la Liga un'altra volta. Ma tanto adesso torna Ibra, lo sai che il vecchio allenatore dei Pulcini del Malmo ha raccontato di averlo sentito via Skype un paio di giorni fa e ha raccontato che Zlatan gli ha detto no, ma io torno a Torino, non è una questione di soldi e se non è per quest'anno lo faccio l'anno prossimo. Io ricordo che guadagna 15 milioni di euro, dovrebbe tagliarsi dello stipendio del 70-80%, ma lui l'ha già fatto per giocare al Milan qualche anno fa di ridursi lo stipendio. No, volevo chiedere a Fabrizio se è un Paris Saint-Germain più forte o meno forte dell'anno scorso fin qui? Ma io credo che sia più forte, perché quando rimane lo zoccolo duro di una squadra credo che poi anche i giocatori che arrivano si ambientano facilmente, riescono anche a entrare nella mentalità dello zoccolo duro e quindi della squadra, perché credo dietro ci sia anche una società molto forte, una società vincente, però credo che quando tu hai dei giocatori veramente straordinari, perché ci sono dei giocatori formidabili e magari con il passare del tempo ci si conosce sempre più, ci si ammorbidisce anche sotto il punto di vista caratteriale negli allenamenti, perché qualche scherzo ci può essere, come è successo l'ultimo allenamento della stagione scorsa quando c'è stato quella inclinazione tra Thiago Silva e Ibrahimovic, e poi Thiago Silva ha riportato tutto le cose normali per far capire che Ibra è un giocatore che vuol vincere anche nelle partitelle, e quindi credo che la squadra sarà sicuramente in crescita, crescerà ulteriormente, perché quando c'è questa mentalità più il tempo passa e più la squadra diventa forte e credo che questi, quindi il Paris Saint-Germain potrà veramente migliorare. E poi c'è David Luiz, no? Che è la grande incognita, visto quanto è stato pagato. Mourinho risulta ancora molto felice. Una follia. Con tutto il rispetto per David Luiz, un giocatore che non è che mi affascina. No, ma per quello ti chiedevo se è più forte o meno forte dell'anno scorso, perché poi gran parte del mercato è ruotato su quel nome, anche perché è stato pagato qualche spicciolo. Sì. Sì, mi sembra 50 milioni di euro. Sì, anche una sessantina. Anche una sessantina, Fabrizio. Quindi è andato via Alex e è arrivato lui. È andato via un brasiliano e è tornato un brasiliano. Ma onestamente mi sembra più difensore Alex che David Luiz. Basta pensare che poi Mourinho l'ha fatto sempre giocare nell'ultimo periodo al centrocampo, perché forse magari non si fidava. Sai, vicino a uno come Thiago Silva, anche David Luiz fa la sua porca figura, Fabrizio. Forse ce la faccio anch'io una porca figura accanto a Thiago Silva. Sì, però sai, nel calcio oggigiorno cambiano le partite nei gli episodi. Se noi vediamo che in una semifinale di Coppa del Mondo un giocatore del Bayern Monaco, Müller, riesce a fare gol nell'area piccola di piatto su un calcio d'angolo, qualcosa non mi suona giusto e quindi ci sono degli errori elementari, perché oggigiorno, no, quando all'epoca mia si faceva fatica a trovare degli attaccanti, oggi si fa fatica veramente a trovare i difensori, non c'è più un difensore che sa marcare. Il calcio d'angolo si marca sempre a zona, poi a zona bisogna anche saper marcare a zona, perché non è che marcando a zona dici è più facile, ma anche marcare a zona ci vuole comunque una scuola per poter marcare a zona. E quindi credo che va incontro a delle grosse difficoltà, e quando sali di categoria, sali di livello, sono i piccoli episodi che ti possono far cambiare una partita. Sono quando 5-6 metti bravo, quando dopo 5-6 minuti prendi o 10 minuti prendi un gol di un errore clamoroso di quel genere, sicuramente la squadra perde lucidità, perde autostima, il giocatore sa che ha commesso un grosso errore, quindi magari vuole strafare, per essere grandi giocatori, grandi campioni, oltre alle qualità ci vuole anche un grande carattere, grande determinazione. Credo che poi alla fine sia sempre quello che fa la differenza di un campione. Ho capito che è un grande campione, perché al di là delle qualità che magari Ronaldo e Messi ne potrebbero avere anche di più, anche se poi dopo ci si può parlare, però credo che il carattere di Ibra sia veramente quello di un grande campione. Sì, ma questo è evidente, ma poi è uno dei pochi giocatori che almeno personalmente mi diverto ancora a vedere giocare. Fabrizio, ti chiedo un istante di pazienza, avrei un altro paio di domande per te, anche perché c'era questa storia di Conte possibile allenatore del Paris Saint Germain in un prossimo futuro, che è interessante. Voglio sentire l'opinione di Ravanelli. Strade. Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Allora, con Fabrizio Ravanelli, che sarà la voce del commento tecnico per Fox Sport della Ligue 1, campionato francese che va a iniziare in questo weekend, ve lo ricordo, venerdì, Stade Rennes, Paris Saint-Germain. Allora Fabrizio, avrai sentito questa voce, Conte possibile allenatore del Paris Saint-Germain, è venuta fuori questa notizia, poi non se ne è fatto nulla. Io mi ero domandato anche, ma cosa avrà fatto Blanc? Forse ha sputato sulle scarpe di qualche sceicco, perché ha vinto il campionato, ha fatto bene in Champions League, perché mandarlo via? Io Conte continuo a sperare di vederlo sulla panchina della nazionale italiana. E tutti noi italiani vorremmo vedere Conte nella panchina italiana, perché è un allenatore, credo, il più bravi al mondo. Per quanto riguarda il discorso di Blanc, credo che io, avendo avuto la possibilità di allenare scorso anno una squadra, avendo l'Ajax, avendo seguito tutte le critiche, loro credo che abbiano fatto questa analisi dicendo che per vincere il campionato è stata una cosa facile, anche se poi chi ha giocato a calcio e chi sa, vincere è sempre difficile. Quindi va dato atto a Laurent, che ha fatto un grande campionato e ha vinto anche esprimendo un grande gioco. La cosa che è rimasta un po' così amaro in bocca è che dopo il 3-1 contro il Chelsea, allo Stamford Bridge gestita male la partita, e io, da quello che so, tra l'altro, anche quando era Ancelotti allenatore del Paris Saint-Germain, non è che c'erano il presidente, non è che era un presidente, nonostante abbia i soldi, nonostante abbia tutto, che era facile gestione con l'allenatore se non si vinceva. Quindi credo che non gli sia andata giù molto il discorso della Champions League, che sia stata gestita male questo quarto di finale, quindi abbia veramente sia stato veramente molto arrabbiato, soprattutto per quello. Però questo quarto di finale è stato un po' considerato il minimo sindacale che veniva richiesto a Blanc per guadagnarsi la riconferma. Però Conte sul mercato fa gola. Allora io ti dico, carissimo Carlo, che un uccellino nelle ore successive al divorzio di Conte dalla Juventus mi ha detto: altro che stressato, altro che tutte quelle cose che stanno scrivendo. E me l'ha detto una, due o tre volte: se domani mattina arriva una telefonata da Parigi, noi prendiamo l'aereo e andiamo, e Conte vi fa vedere com'è stressato. Allora, alla terza volta che mi ha nominato la città di Parigi, sono lento, però ci arrivo. No, diciamo che qualche domanda me la sono fatta, Fabrizio. Ma non lo so, io credo che, come si dice, Antonio Conte ha lasciato la Juve, non credo che lui e la società abbiano così tutto un tratto avuto una crisi. Credo che quando poi si arrivi a una crisi anche a livello matrimoniale, purtroppo si arriva anche dopo qualche discussione, ci si può anche lasciare nella maniera giusta, come si è lasciato Antonio e la società. Magari non è un addio, è un addio, è un arrivederci, non è un addio temporaneo. Credo che le due, sia Antonio che la società, è da parecchio tempo che parlavano di situazioni che noi non conosciamo, che magari solo le persone che sono all'interno possono conoscere, però dal di fuori, da persona esterna, posso capire che qualcosa che magari non andasse ad Antonio e che magari la società rispondesse picche, c'era per forza, perché sennò non si arrivava sicuramente a una separazione anche consensuale, ma una separazione. Certo, diciamo che non era una questione di motivazioni, io su questo posso spendere la mia parola per quanto può valere. Comunque facciamo il tifo, magari tu vorresti il campionato francese per poterlo commentare, Fabrizio, però facciamo tutti quanti il tifo per un Conte su sulla panchina azzurra, ma è chiaro, sono discorsi vari ed eventuali, bisogna vedere cosa succede lunedì, Tavecchio, Banane, eccetera, poi sarà da scegliere il CT. Certo. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao, ciao a voi, buon lavoro, ciao. Buon lavoro a Fox Sport. Grazie. Fabrizio Ravanelli. Grazie. 800240024, tra poco cominciamo a parlare con voi, ma nel frattempo anche con Giovanni Capuano abbiamo anche altri argomenti. Del nostro, noi l'anno scorso abbiamo proceduto a rinnovare il contratto perché consapevoli delle capacità e del ruolo che poteva avere nel contesto della nostra rosa. Si parla molto di trasferimenti, ma in realtà il trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente se il giocatore verrà a chiedersi di spostarsi. Oggi non l'ha fatto. Non l'ha fatto, e quindi credo che anche nella stagione 14-15 farà parte del nostro organico. At the moment we've received no offer, and at the moment he's a Juventus player 101%. We are glad. We want to move forward together, and we're happy about that. Per quanto riguarda Vidal Pogba, sono due giocatori della Juventus, la società è stata chiara sul mercato. Loro sono molto, molto contenti di rimanere alla Juventus, e io sono molto contento di allenarli. Juve, possiamo dirlo? Sì, rimane. Rimani? Sì. Non vai a Manchester, vero? No. Allora, Giovanni, ho convocato Luca Marchetti per 3-4 domande secche. At the moment, At the moment. L'hai sentito Andrea Agnelli. At the moment. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Vale, at io the già moment. So che tu mi metterai in difficoltà, no, sicuro. Ma no. Quando, io ti voglio solo chiedere quando Vidal andrà via dalla Juventus, cioè prima di fine agosto, prossima settimana. Non quando, se e come. No, quando. Quando? Io non so se andrà. Ah. Perché dipendesse da lui, io credo che se è vero quello che scrive in Inghilterra, che ha questa offerta così importante, però questa offerta non l'hanno mai presentata. Io faccio un discorso semplicemente di gestione aziendale. Se tu hai un giocatore come Vidal e torni dalla tournée in Asia il 15 agosto, tra l'altro il 15 inizia anche la Premier, gli ultimi 15 giorni di mercato secondo me non dai via un giocatore come Vidal. Ma a meno che non ti fanno cadere dalla sedia con i soldi. Sì. Beh, è andato via l'allenatore dopo l'inizio della stagione. Però questo sarebbe diverso. Questa sarebbe. La Juventus, secondo me, si è messa nelle condizioni di poter cedere Vidal. Però sì, effettivamente il tempo a questo punto lavora perché Vidal resti alla Juventus, volente o nolente, ed eventualmente poi si riaprono tutti i giochi, secondo me, tra un anno, perché bisogna anche vedere cosa farà il buon Mino con il rinnovo di contratto di Pogba. Che secondo me oggi è quasi più interessante come discorso, perché è da marzo che ci state raccontando e vi stiamo raccontando che sta per rinnovare. Siamo arrivati praticamente a Ferragosto, il rinnovo non c'è, e fra un po' diventa un'urgenza, un'emergenza per la Juventus. Ma questo la Juventus lo sa, quando hai un giocatore così importante, che peraltro è gestito da Mino Raiola, anche il rinnovo diventa una questione difficile. Raiola, l'unica cosa che ha fatto, non ha mai messo in difficoltà la squadra a cui portava via il giocatore, perché gli ha sempre portato un sacco di soldi, e quindi alla fine è nell'interesse di tutti, perché è nell'interesse del giocatore che va guadagnando di più, nell'interesse della società che vende, perché comunque monetizza la cessione, nell'interesse di chi compra, perché compra un grande giocatore. Generalmente Mino Raiola ha sempre fatto questo tipo di affari perché ha avuto la bravura e la fortuna di gestire grandi giocatori. A lui conviene, diciamo, che il problema via. Pogba è il me. Sì, certo. Io il problema Pogba sicuramente non lo vedo, perché non lo so, la mia sensazione è che se Vidal avesse avuto un procuratore come Mino Raiola, con tutto il rispetto per Felicevic, che è un grandissimo interprete della sua professione, noi oggi già sapremmo se sarebbe un giocatore del Manchester o no, se fosse già un giocatore del Manchester, perché si sarebbe respirato qualcosa di diverso. Ecco, ci sarebbero stati dei segnali diversi, i famosi mal di pancia, sì, no? Ma l'avrebbe già portato, l'avrebbe già portato via, l'avrebbe già portato da un'altra parte guadagnando una montagna di quattrini. Luca, l'Oscar di metà mercato è dell'Inter, della Roma o della Lazio? Questa è una bella domanda. Ti dico, l'Inter rispetto alle risorse che aveva a disposizione, secondo me ha fatto un buonissimo mercato. Sì. L'ha quasi finito, manca soltanto l'ultima cosa e qualche cessione, perché adesso obiettivamente sono in tanti, però spendere praticamente 5 milioni di euro per questa stagione, portare a casa giocatori che comunque cambiano un po' il volto alla squadra, secondo me è un grandissimo merito di ausilio. Sono d'accordo. La Roma obiettivamente ha fatto un mercato più scoppiettante, ma ha speso molto di più, la squadra che ha speso di più, 45 milioni di euro in complessivo, non nell'anno, perché se facciamo i conti per l'anno magari ne ha spesi sicuramente di meno. E ha avuto due colpi che hanno fatto sognare i tifosi della Roma, non tanto e non solo per le qualità di chi ha comprato, ma perché li ha rubati, una alla Juventus e una alla Lazio. Ma adesso gli ruba anche Manolas. Ma secondo me, se lo prende la Juventus, lo ruba la Roma, guarda che ti dico. Perché effettivamente ieri c'è stato un momento in cui sembrava che Manolas fosse sbarcato in Italia, Manolas o comunque Mino, sempre Raiola, Manolas, o comunque chi veniva a trattarlo, a offrirlo, fosse sbarcato in Italia per parlare con la Juventus, poi invece piano piano si è scoperto che in questo caso i rapporti di forza sono invertiti. Il gusto, sì, il gusto dello sberleffo. Un'ultima cosa, quando il Napoli prenderà Fellaini? Così avvertiamo i tifosi napoletani tutti a capo di chilo. No, io penso che ci voglia almeno una settimana per capire, per firmare e andare a capo di chino. Okay. Se basta. Ok, quindi così si organizzeranno Ferragosto a capo di chino, più o meno. Ferragosto a capo di chino devono chiudere. Code, cose. Perché sarà. Se il Napoli riesce nel colpo Fellaini, obiettivamente è un grande colpo, soprattutto a quelle cifre e con quelle modalità. Grazie Luca, buon lavoro a Sky. A voi. Ti vediamo tutti i giorni, ci seguiamo tutti i giorni, anche a Ferragosto quando sbarcherà Fellaini a Napoli. Sì, Napoli che in questo momento secondo me non è più forte dell'anno scorso, e mi sembra abbia anche le idee un po' meno chiare rispetto all'anno scorso, quando ad oggi aveva già imbastito Higuain, che è il colpo delle ultime due stagioni. Scorso, chi è più forte dell'anno scorso? Ma secondo me la Juventus, al netto dello shock per il cambio dell'allenatore, ma tanto questo è un rischio calcolato, io l'ho detto, l'ho scritto, lo ripeto, fare 102 punti sarebbe stato impossibile per lo stesso Conte, ma c'è un vantaggio discreto su una Roma che tra l'altro noi continuiamo a dimenticare, la Roma farà la Champions League quest'anno, l'anno scorso non aveva l'Europa, quindi è più lunga, è tutto da verificare, ma anche la Juventus è più lunga, ha una coppia di esterni che ad esempio non aveva, o meglio ha due coppie di esterni. Se tu vai a vederti i dati delle tre Juventus di Conte ti accorgerai che c'era un nucleo di 13-14 giocatori che giocava almeno il 60% delle partite e poi per distacco arrivavano tutti gli altri. Ecco, quest'anno si è intervenuto lì, Romulo e Devra vanno a coprire Lichtsteiner e Asamoah. C'è Morata che dovrebbe avere un minutaggio superiore rispetto a Quagliarella che è stato il terzo attaccante per presenze l'anno scorso, il terzo significa che hanno giocato soltanto Tevez e Llorente. Io penso che comunque a me fosse un'idea Eto'o non dispiacerebbe come terza punta. Secondo me non è il profilo che la Juventus insegue in questo momento. Anche secondo me, però a me non dispiace. Poi arriva Ibrahimovic e quindi tutti questi discorsi sono finiti. Arriva Ibra. L'ha detto lui, no? Sì, vabbè. L'ha detto lui, Facebook, Twitter, l'amico allenatore delle giovanili. Io sono come San Tommaso, quando lo vedo ci credo, per adesso un ce credo. Caro Stefan Hanson, anni 56, che ci dà che dà ai tifosi juventini questa notizia. Tutti convocati. Allora, oggi qui con me Giovanni Capuano, naturalmente Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Capuano, cui cederò volentieri domani il microfono. Domani, nei giorni che verranno, toccherà a lui tutto il racconto e tutto il commento dell'elezione del prossimo presidente federale. Noi abbiamo un sacco di cose da dire. Abbiamo l'arrivo di Ibrahimovic alla Juventus, abbiamo il top player del Milan, perché adesso si è sbloccato il mercato del Milan. Del Piero? non lo so, il top player del Milan, lo racconteremo a partire da domani, poi sicuramente settimana prossima. Poi abbiamo Banana Man e tutte le vicende legate alla presidenza della Federcalcio. Diego Lopez, il top player del Milan. Sì, che dimostra anche una certa confusione anche per quanto riguarda i portieri, che secondo me non erano la priorità in questo momento del Milan, ma forse alla fine fanno un'operazione di bilancio, perché c'è Gazzi che è arrivato a zero. Tante di quelle priorità, ragazzi, mi ha talmente tante di quelle priorità che qualunque giocatore prenda una priorità. Ieri sera mi hanno raccontato che il Wolfsburg sta pensando di fare un'offerta per Pazzini, il che secondo me per il Milan sarebbe un problema, visto che loro vorrebbero cedere Balotelli e hanno la difficoltà di trovare qualcuno che gli dà almeno 19-20 milioni per questioni di bilancio. Sì, sì, sì, sì. Però questo dimostra che poi non è facile fare mercato, ma secondo me vale anche per l'Inter. Io l'avete secondo me chiusa in fretta questa questione, adesso ne deve cedere un paio, no, ne deve cedere un paio importanti, non deve cedere Schelotto, anche Schelotto. Il problema è che deve cedere insieme a Schelotto e Campagnaro anche Guarin e magari Alvarez, almeno uno dei due, possibilmente Guarin. Altrimenti poi magari arriva qualcuno che ti offre milioni per Kovacic e sei costretto a venderlo. Sì, sì, il discorso che è più facile trovare una collocazione per uno come Guarin che non per un qualunque giocatore del Milan in questo momento. Sì, il fatto che non c'è un'offerta, in questo momento Guarin non esiste una società che abbia mandato una mail all'Inter chiedendo. Ma vedrai che arriva. Michele, seria Guarin. Buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno Michele. Buongiorno, io sì, telefono da Vicenza, sono un tifosissimo sfegatato della Fiorentina. Sì. Una piccola nota di colore, ho chiamato mia figlia Viola appunto in onore della squadra. Sì. La mia domanda è questa, praticamente io considero la Fiorentina un'ottima squadra, sono preoccupato per l'eventuale cessione di Cuadrado, perché a mio avviso è il giocatore che può creare la differenza, lo scompiglio in attacco. Sì, sono d'accordo. Cosa ne pensate voi? Ma io la penso come lei, cioè se la Fiorentina riuscirà a trattenere Cuadrado probabilmente farà il colpo di mercato più importante dell'anno. Detto questo, vale moltissimi soldi, quelli che possono spendere quei soldi in Europa si contano sulle dita di una mano, e non mi sembra che a oggi, e siamo al 6 di agosto, sia arrivata una vera offerta per Cuadrado. Sì, la Fiorentina mi sembra più forte fin qui dell'anno scorso, poi ha già fatto un altro grande colpo che è Mario Gomez. Noi l'anno scorso non l'abbiamo visto, quest'anno dovremmo finalmente vederlo e dovremmo vederlo insieme a Pepito Rossi. Secondo me la Fiorentina può anche fare a meno di Cuadrado se arriva l'offerta giusta e poi completarsi, perché ripeto, noi abbiamo visto una squadra che l'anno scorso è arrivata in maniera abbastanza comoda, comunque a ridosso delle primissime posizioni, ed è una squadra che ha fatto a meno per un campionato dell'uomo che doveva essere il più importante, e per mezzo campionato di uno che a momenti diventava capocannoniere lo stesso. E sì, questi, però questi ci saranno, ci saranno. Però Cuadrado è uno che fa la differenza. Però se davvero arriva qualcuno che ti dà 40 milioni, io credo che non ci siano le condizioni per tenerlo a Firenze. Se non ci sono per tenerle a Torino, figuriamoci a Firenze. Comunque anche questo lo raccontiamo in fretta, perché in questo la Fiorentina è brava, perché è chiara. Domani c'è questo incontro fra Cuadrado e Andrea Della Valle e secondo me saranno abbastanza onesti da chiarirsi immediatamente. Guardate che la storia degli ultimi anni dice che quando Della Valle ha detto no è stato no, ad esempio Jovetic nel primo anno, quando ha detto no ma l'anno prossimo te ne vai è successo, quando ha detto sì i giocatori sono partiti. Sì, secondo me non sarà un tormentone. Salvatore Mantova, buongiorno. Ciao Carlo, volevo intervenire sul discorso che facevi prima con Fabrizio Ravanelli per David Luiz. Sì. Tu giustamente hai detto che di fianco a Thiago Silva, chiunque, anche tu, fai la tua porca figura. Beh, io magari no. Io esagerato. Ma io facevo una riflessione al contrario, perché io ho guardato il Mondiale e soprattutto nella prima partita, secondo me l'unico giocatore che potrebbe far giocare veramente male Thiago Silva è David Luiz. Ti ascolto per radio, grazie. Perché? Perché lui già nella prima partita, io l'ho visto, è un giocatore che si distrae facilmente. Ha il vizio di uscire palla al piede in ogni situazione. Poi la differenza che costituisce nel difensore centrale è l'attenzione e la concentrazione. lui non ce l'ha al 100% di tutta la partita, e io ho visto che Thiago Silva li guardava attentamente, continuava a cercarlo, perché continuava a perderlo, era distante, era distanze troppo lunghe, troppo distante da lui, non è un giocatore che può giocare centrale, ecco. E tanto è vero che Mourinho ha detto fai meno lo faceva giocare, ma sì, io sono d'accordo con Mourinho, come spesso capita. Sì, tra l'altro il problema non è tanto che lui esce, prende, va a palla al piede, perché ad esempio Mourinho ha giocato con Lucio, che è un giocatore simile dal punto di vista delle caratteristiche, però poi Lucio difendeva quando si trovava dentro l'area di rigore. David Luiz effettivamente ogni tanto si distrae, però diciamo la verità, se insomma, ma l'abbiamo detto e stradetto, se David Luiz fosse stato del Chelsea dopo il mondiale, difficilmente Mourinho l'avrebbe venduto a quella cifra. perché poi il confronto è stato impietoso, e per questo io ho chiesto prima a Ravanelli, ma siamo proprio sicuri che questo Paris Saint-Germain disegnato come oggi sia più forte dell'anno scorso? Io qualche dubbio ce l'ho, poi se arriva Di Maria è un altro discorso. I wanna be a billionaire, so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes. How are you? Fine. Are you confident today? Are you confident for today? About what? That's the last time for you today. Let's see. The judge would decide. Yeah. Io penso che dobbiamo vedere, prima di tutto pensare a quest'anno, che ci sono delle possibilità interessanti sul campionato costruttori. Ci sono 4-5 squadre in 40 punti e non è lo stesso finire secondi in costruttori che sesti, quindi c'è un focus molto grande su questo. Poi sul futuro ancora anni di contratto e dobbiamo vedere qual è il mio futuro per tutti. Nothing to do with money at all. And damn sure do a lot more than FEMA did. Would you like to say something? Bye bye. Take care of Formula One. Ciao. Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non può pensare di mangiare con 10 euro. Allora, domani vado in vacanza, cedo baracca Burattina, Giovanni Capuano che oggi è qui con me, ma prima volevo salutare pubblicamente il secondo più grande di tutti, cioè Leo Turrini. Carissimo Carlo, vai in vacanza, beato te. Perché il primo più grande di tutti è Bernie Ecclestone. Allora, quanto viene il conto? Va bene, sì, ho fatto questa porcata, ho corrotto qualcuno, ma che problema c'è? Fatemi il conto, quant'è? Questo ce li hai 100 milioni? Solo il primo passo, questo, caro Genta, questo è solo il primo passo, nel senso che è evidente che Ecclestone ha come obiettivo quello di comprarsi l'immortalità, capisci? E ci riesce. Adesso, con questo stanziamento, si è garantito, diciamo così, la conservazione della libertà. Tu devi fare questo ragionamento. Il Real Madrid ha speso 100 milioni per comprare Bale, sì, e Ecclestone ha speso 100 milioni per comprarsi la libertà. Ora, qual è per questi personaggi che si ritengono appunto insostituibili, indispensabili, eterni, il passo successivo? Il passo successivo è appunto una trattativa diretta con l'onnipotente, cercare di garantirsi almeno altri 100 anni al vertice della Formula 1, che come tu sai ha una cupola governativa, che sono tutti ragazzini, perché Ron Dennis, Montezemolo, Todd, sembrano usciti dallo scandalo Water, che sì, se ne parlava 40 anni fa, hai capito? Poi dicono, però adesso avremo uno slancio innovatore, con chi? Con Briatore, che con tutto il rispetto, you are fired, ma voglio dire, anche Briatore, insomma, poteva fare il sottosegretario col PSD al governo nel 1960. Sì, noi ci lamentiamo dei 71 anni di Tavecchio, Tavecchio è un ragazzino, appena uscito dal liceo. Voi del calcio, non riuscite a cogliere gli aspetti. Invece vi siete soffermati su questa storia, le banane, ste cose, l'omicidio Kennedy. Ma pensate a questi 100 milioni, com'era la famosa canzone, vorrei avere 1.000 lire al mese, sì, no? Perché poi questa storia dei 100 milioni, hai visto, torna anche su sicuro di Alonso, no? Che lo facevi sentire prima. Sì, Alonso no. Ne parliamo tra un attimo, caro professor Torini. Aspetta un attimo, ne parliamo tra un attimo, perché no. c'è il traffico. Però Alonso fa benissimo a chiedere il raddoppio dello stipendio, che cavolo, cioè è lì da anni. Ma io la mia carriera. Quadruplo, la luna, tutto, lui ha il diritto. Devo dire che la controparte ha anche il diritto di rispondere. Picche, naturalmente, normale trattativa. Traffico, dopo aver notato che comunque il dottor Eccleston ne versa, ne ha pagati 930 di milioni a Slavica, la stangona con cui era sposato, eccetera. Leggevo, a una figlia ha comprato una casetta da 78 e all'altra una da 97 milioni. Quindi, e cosa in tutto volete questo che sia? Ci si sta a preoccupare del PIL che fa meno 0,2, hai capito? Ma si dove parla di recessione tecnica, traffico, base del traffico. Tutti convocati. Allora, Leo Turini, io voglio Eccleston presidente della Federcalcio italiana e magari anche per il dopo Renzi se ne può parlare. Sì, però dobbiamo fare una precisazione, siccome avete detto coda 4 km sulla Brescia-Padova, perché c'è la notizia che ti è sfuggita, è incinta la nuova compagna di Raikkonen. Allora, siccome Enzo Ferrari diceva ogni figlio un pilota perde un secondo al giro, praticamente lui adesso sulla Brescia-Padova è fermo, hai capito? È fermo. Non procede il grande Kimi, anche il peso della paternità. Tu vuoi sapere dei 100 milioni di euro di Alonso? Vogliamo sapere tutto. Sì. Perché se Eccleston si è pagato con 100 milioni la libertà, mi viene da dire che Alonso ne vuole 105 per mettersi in gabbia, visto che mi pare di aver capito che consideri in questo momento la Ferrari una sorta di gabbia per il suo talento, le sue ambizioni e tutto il resto. Non è che se lo allora, diciamo le cose come stanno. Intanto Fernando, lo ricordava anche la sua voce che facevate sentire poco fa, ha ancora 2 anni di contratto con la Ferrari, fino al 2016 lui è già vincolato. L'ipotesi sulla quale si ragiona è che lui scelga di chiudere definitivamente la carriera a Maranello, quindi prolungando fino al 2019, che vorrebbe dire ti fai 10 campionati alla Ferrari, quasi come Schumi che ne fece 11, no? E scommetti sulla possibilità di diventare in 40 anni, 1979-2019, il terzo essere umano ad aver vinto un mondiale con la Ferrari. Io so che a gente viene l'ulcera, ma ce ne sono solo due sulla faccia del pianeta che ci sono riusciti, quello che adesso è fermo sulla Brescia-Padova, c'è cioè Raikkonen, e l'altro Schumi. Alonso potrebbe essere il terzo, sì. Però ovviamente essendo un grandissimo campione, non avendo toccato palla in queste 5 stagioni, soprattutto per via della macchina, sta che lui dica, beh, se devo chiudere carriera qui rinunciando a altre opzioni, almeno datemi. Ecco. La Ferrari dal suo punto di vista non credo che sia disposta a trattare di grandezza, anzi lo so, su quei soldi lì non ci stanno. Perché o è un matrimonio, diciamo così, di reciproca convinzione, cioè sì, ci proviamo, sarà difficile, dobbiamo arrivare a vincere questo benedetto titolo mondiale Alonso e Ferrari in coppia, o se deve essere invece una cosa di convenienza, di interesse, un tempo si diceva appunto nozze combinate, una roba tipo Tavecchio e Figici, ecco, allora in quel caso lì, in questo mio opinione personale, me farebbero a separarsi, sì, perché di tutto ha bisogno la Ferrari adesso, fuorché di un amore infelice, hai capito? No, ne ha già tanti di amore infelici, dai. Direi di sì, insomma. Ma d'altra parte ha diritto di cittadinanza, anche una domanda che mi arriva SMS da Livorno: se Alonso ha un'offerta dalla Mercedes al posto di chi, non è chiaro. No, dalla Mercedes non ce l'ha, no. Perché dovrebbe rimanere alla Ferrari per un pugno di dollari in più? Ma ha un'offerta da qualche parte o no, Alonso? Sì. Allora, attenzione, io Red Bull. Giusto ieri l'altro con Aldo Costa, che essendo un grande ingegnere italiano e il direttore tecnico della Ferrari, lo hanno cacciato dalla sera alla mattina nel 2011 appiccicandogli l'etichetta di incapace, ed è quello che ha fatto la Mercedes, dove lavora adesso, di Hamilton e Rosberg. E Aldo mi diceva che siccome Rosberg ha appena rinnovato Hamilton comunque il contratto per l'anno prossimo, a meno che non si picchino in pista, cosa possibile, non da escludere. Allora, è difficile che il pupillo di Tavecchio, cioè il nero della Mercedes, avendo questa macchina a disposizione, dica: sapete cosa, ce me ne vado. Quindi io non credo che i Mercedes facciano il ragionamento su Alonso, perché i piloti li hanno già. Certamente Alonso ha un'offerta sontuosa da parte dei giapponesi della Honda, che rientrano l'anno prossimo con McLaren, che vogliono un top driver e che giustamente stravedono per Fernando. Dopodiché, per quanto incredibile possa sembrare, oggi però col motore Mercedes la McLaren va più piano della Ferrari. Questa è una roba storica, è come dire che appunto Tavecchio è un giovane manager con una visione. La McLaren va più piano della Ferrari. Allora Alonso, se la sente di trasferirsi in una realtà dove partirebbe persino più indietro da quella che è la dimensione attuale della macchina rossa, io non lo so. Se, se gli danno 100 milioni in tre anni, secondo me, se la allora, sente anche lui. Torniamo sempre lì, Eccleston, hai capito? Bale, Alonso, 100 milioni, però il PIL fa meno 0,2, hai capito? Recessione tecnica, voi siete la radio del Sole 24 Ore, ragazzi, qui fra un po' arriva Barisoni e dice: qui non funziona niente, l'economia è piantata, poi vi lamentate della Ferrari in Formula 1. La Ferrari in Formula 1 è come il paese. Sì, siamo lenti, sì, abbiamo, e abbiamo bisogno di Bernie Eccleston alla guida. Sì, a differenza del paese, la Ferrari almeno ha un fuoriclasse che ogni tanto la fa salire sul podio. Che ogni tanto la mette. Leotturini, toglimi un'ultima curiosità sulla Ferrari, per favore. Ma allora, la macchina non va, difficilmente andrà in un futuro vicino. Mi spieghi perché nella rivoluzione dell'organigramma è stato confermato il progettista, mi sembra messicano, non ha capito niente, perché? No, è greco. Si chiama Tom Bazis, è una persona piacevolissima. Questo Tom Bazis però è come il geometra di casa Genta, no? Sì. Che per tre anni di fila ti deve fare un garage dove possa entrare la tua moto e ti sbaglia regolarmente la misura, perché so che tu vai in moto e tu non riesci a parcheggiare la tua moto. Cioè ti sbaglia proprio il garage, hai capito? Sì. Allora tu cosa dici? Io cosa dico? Mi incazzo come un toro. No, la quarta volta dici: vabbè, adesso cambio il geometra. Non c'è più una quarta volta, neanche una terza. Invece Tom Bazis è stato confermato. Perché? Questo è il quarto segreto di Fatima. Io non lo so. Ho capito. All'inspiegabile, di fronte al misterioso, ci arrendiamo. Sono quelle cose esoteriche. Poi magari finalmente, dai, riuscirà a fare questo garage, cioè questa macchina, come si vede, hai capito? Però effettivamente ce lo chiediamo tutti, perché in Ferrari hanno mandato via il capo dei motoristi, che era Marmorini, hanno mandato via il capo del reparto corsa stesso, che era Domenicali, hanno insomma spostato altre figure tecniche dell'organigramma e così via, il progettista no. Questo io non lo è so. È semplicemente il quarto mistero di Fatima. Il quarto segreto di Fatima, e forse arriveremo un giorno a dire cosa succede dietro tutto ciò, fermo restando, ripeto, è una bellissima notizia, la compagna di Kimi aspetta un figlio, quindi lì sulla Brescia-Padova non lamentatevi delle cose. Non lamentatevi, perché è Kimi fermo. Ecco, avete capito, come diceva il vecchio di Maranello. Povero biondino, ma tu sai che io stravedo per Raikkonen. Ma condividiamo questo amore infelice. Ferrarista di Ritz, poi ci siamo trovati di fronte al formidabile Alonso, stiamo 0-11 nel confronto diretto. Non c'è un grande equilibrio per ora. No, si poteva fare meglio, si poteva decisamente fare meglio. Ma del resto questa è una stagione che è iniziata con il famoso video di Montezemolo, che diceva: io mi sono scocciato di arrivare secondo, a parte che era arrivato terzo, doveva essere il top team con questa squadra da sogno. Poi io sono un ferrarista tiepido, carissimo Leo, e non ho capito in tutto questo discorso che hai fatto, non ho capito perché per i prossimi due anni devo mettermi la domenica pomeriggio a guardare i Gran Premi. Mi sfugge la chiusura di tutto questo discorso. Innanzitutto tu devi avere sempre l'idea che la Ferrari, che pure attraversa in Formula 1, perché l'azienda va benissimo, e in Formula 1 adesso la Ferrari ovviamente non è al top, ma farà tutto quello che è nelle sue possibilità per tornarci. Voglio dire, bisogna nella vita anche avere il senso della traversata del deserto. Io l'ho già fatta, perché voi siete ragazzi, dal 79 al 2000, da Scheckter a Schumi, io mi sono sciroppato addirittura un ventennio stile Mussolini o Seconda Repubblica di Berlusconi. Guarda che c'ero anch'io, Non si toccava palla, hai capito? A proposito di ventennale, se non l'avete fatto, concedetemelo di ricordare Domenico Modugno, che sono 20 anni oggi che se n'è andato, e bisogna prendere spunto proprio da quello che era l'entusiasmo di un brano come Volare, nel blu dipinto di blu, in un'Italia che sapeva ancora sognare. Quello fu il vero inno del boom economico, e io spero che proprio Volare sia anche, diciamo così, l'inno di una Ferrari che con Raikkonen per ora rallentato tra Brescia e Padova, Alonso che si deciderà a rimanere perché nulla vale quanto una vittoria iridata sulla macchina rossa, ci restituisca le soddisfazioni che patriotticamente tutti noi stiamo aspettando. Però il PIL è meno 0,2, io non so adesso Barisoni cosa dirà, non lo so, però Eccleston, caccia 100 milioni così, 100 milioni comprato la libertà, con un miliardo di euro potrebbe comprarsi l'immortalità. Questa è la vera notizia, maestro, ti saluto così, grazie. Grazie a voi. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Paolo, Modena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Sono un conterraneo di Leo Turrini, volevo fargli una domanda, ma mi sa che è già andato via. Sì, l'abbiamo salutato. Se vuole gliela riportiamo in differita, ci risponde. Magari sta ascoltando. Cosa voleva chiedere? Lui è un grandissimo storico della Formula 1, però è anche un grande appassionato di calcio. Allora volevo sapere da lui, visto che è senz'altro al corrente, sapere se i gialli, i modenesi, il Modena quest'anno spicca il volo verso là, e allora volevo chiedergli quello, se aveva delle notizie. Se aveva delle notizie di calcio, perché lui si camuffa per la Formula 1, ma è che ha un programma notturno, dove, in un'osteria dove bevono dell'ottimo vino e tagliano del salame, e dove lei gente potrebbe anche essere ospite una volta, mi piacerebbe vederli. Ma se Leo Turrini mi porta, Leo mi porti? Quando vuoi, naturalmente, però io questa trasmissione per la verità non la faccio più da 2 anni, eh. Era una roba molto divertente che facevamo a mezzanotte, ma per rispondere al tifoso, sai che il Modena era un altro immortale al vertice, Totò Caliendo, no? Il primo procuratore nel calcio italiano, quello di Antonioni, sì. Poi Maggio e tutto il resto, che devo dire l'anno scorso, pochi mesi fa, i playoff ha sfiorato la Serie A, ci vuole arrivare, speriamo, anche perché sarebbe molto bello, avendo il Sassuolo per modo nel suo territorio, trovarsi come Milano con 2 squadre della massima serie, hai capito? Insomma, quindi non riusciamo a dire però con precisione a Paolo se i canarini spiccheranno il volo. No, questo dovete chiedere a Pardo, perché Pardo... Lo chiederemo a Pardo, Pardo è chissà dov'è Pardo, anzi, sono curioso di sapere dov'è Pardo, cercheremo notizie di Pardo. Grazie Leo, a presto. Ciao, a presto, buona un abbraccio. Carlo. Grazie Leo Turrini. Ciao. Io lascio, ripeto, Baracca Burattini a Giovanni Capuano con piacere per i prossimi giorni. Ci sentiamo lunedì quell'altro, non il prossimo che è l'11, quando Tavecchio verrà eletto presidente federale. Non verrà eletto presidente, Presidente federale e saranno cavoli tuoi Giovanni Capuano. Ci sentiamo lunedì successivo. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.